Strip Trip, un viaggio nel mondo dei fumetti con Alessandro Chiarella. Oh, buonasera, ci risentiamo, questa è l'ennesima puntata di Strip Trip. Stasera siamo un po' a caso, e dico siamo perché c'è anche il Davide che chiacchiera con me stasera. Ebbene sì, buonasera, ciao a tutti. Mi hanno fornito di microfono anche nelle retrovie. Questa sera è, diciamo, un po' un esperimento. Siamo qua con computer molto rilassati, un cellulare che con emittente Radio Bawalla, l'altro puntato sulla pagina di Facebook. Siamo in diretta. E, boh, come vi dicevo, siamo molto rilassati. Io non mi sono neanche preparato una scaletta stasera, perché tanto c'è il Davide che mi copre le buche e i silenzi. Vabbè, no, ma diciamo che abbiamo una grande scaletta alle spalle. Diciamo che di solito mi scrivo proprio tutto. Stasera sappiamo cosa dobbiamo dire, ma essendo in due per me è più facile, e spero di risultare anche meno noioso ai quattro ascoltatori. Ma cosa dici? No, beh, è interessante. Stasera abbiamo delle tematiche, diciamo, e le esplodiamo. Sì, come avevo anticipato in qualche puntata, riparliamo di Zero Calcare, riparliamo un po' del movimento italiano del fumetto, ecco. E, sia io che Davide siamo stati alla Fiera del Libro e abbiamo visto Zero, siamo stati allo stand della Bao e facciamo due chiacchiere su questo, ecco. Intanto, come vi stavo dicendo prima, io sono connesso sulla pagina Facebook, quindi cercherò di aggiornare più volte possibile. Se insomma, ecco, non rispondo, rompetemi le palle, ecco. Bene, adesso sto cercando il tasto aggiorna, che non vedo. F5 non c'è sul cellulare, mannaggia. Ma non è un problema, ti copro io. Tu aggiorna la pagina, nel frattempo parlo un po' io. Zero Calcare, che è stato il primo autore trattato dalla rubrica da Alessandro per gli affezionati del programma Strip Trip. Qualcuno si ricorderà che ha parlato del fumetto Un polpo alla gola, che è stato, cos'era, il secondo uscito di Zero Calcare. Sì, il secondo, esatto. Che attualmente ha all'attivo tre gran bei fumetti. Zero Calcare è un autore molto giovane. Di dove è Zero Calcare? È Romanascio. È di Roma, già, è vero che è di Roma. Mannaggia. No, è vero. Domanda stupida, perché per chi legge Zero Calcare, lui ogni due per tre... sì, poi... come dire, mette delle imprecazioni in romanesco, piuttosto che la connotazione di Roma è molto forte nelle sue storie. È tutto ambientato lì, quindi... Beh, ricordo una in particolare del Mammut. Esatto, che era il Mammut del quartiere, che lui sosteneva che ci fosse un mammut dentro un container o dentro un palazzo, insomma. Sì, da un cantiere. Era un C'erano cantiere. Tipo degli scavi, e lui diceva, esatto. Ma qua lo sanno tutti, hanno trovato un mammut preistorico, a Rebibbia, esatto, bravo. E nessuno gli credeva, invece, anzi, esatto, è proprio in polpo alla gola, forse, che ne parla. Sì, credo di sì. Bene, comunque, alla fine lo prendevano tutti per il culo, insomma. C'era motivo per non dargli ragione, invece il mammut a Rebibbia c'era davvero. Che poi alla fine sta cosa, tu rimani che, cioè, alla fine della storia la questione è che il mammut c'è davvero, ma non è soltanto alla fine della storia di Zero Calcare. Se tu vai su Wikipedia e cerchi mammut preistorico a Rebibbia, questa cosa qua che lui racconta in realtà è vera. Ah sì, no, non sono andato così a fondo. Allora a questo punto ci andiamo insieme subito. Allora guarda, allora, mentre tu parli io sì, ti cito. Sta cercando. Allora, anche voi fatelo con me. Allora andate su internet, fate mammut a Rebibbia. Rebibbia, e vedete cosa viene fuori. Tra l'altro anche ritrovamenti di civiltà dentro la lavatrice di Zero Calcare, a quanto pare. Non so se avete letto l'ultimo, che ogni maledetto lunedì, oppure se seguite il blog di Zero, c'è un fumettino che è abbastanza divertente, abbastanza realistico, sulla sua lavatrice che mette i panni e li lava e poi non c'ha mai voglia di stenderli, allora ogni volta lascia lì i panni bagnati una settimana e poi fa un rilavaggio giusto per dare una rinfrescata perché non ha voglia di stenderli. Ale, quante volte ti è successo? A me mai, perché ho una ragazza che mi bastona su queste cose. Però potrebbe succedere. No, a me è successo spessissimissimo. Però è il senso di colpa che vivi quando lasci la lavatrice per più di un giorno lì, che è lì, ti aspetta, tu sai che più aspetti e peggio è. Beh, io ti dico, è una cosa che non conosco, perché davvero una ragazza che fortunatamente o sfortunatamente, non so, dipende dai punti di vista, su queste cose è intransigente, quindi non posso neanche lasciare i calzini sporchi dal mattino alla sera sul tappeto, sullo scendiletto, perché non è proprio realisticamente possibile. Però conosco persone che hanno fatto diventare... Cioè, da un'arancia hanno fatto nascere un mammut, nel senso che è venuto talmente tanto pelo questa arancia che... Sì, ma ci va del coraggio. Ci va del coraggio, ci va un frigorifero vuoto e un sacco di tempo. Potremmo scrivere il tutorial su come si fa questa cosa. Sì, sì, sì. Allora, prendete un frigorifero vuoto. Un frigorifero vuoto, una casa a Torino, 7 persone che non hanno voglia di cucinare. E a un certo punto uno una sera che chiede: ma avete qualcosa di frutta? Sì, guarda in frigo nel cassetto. La frutta in un appartamento a Torino di studenti. È una cosa, ma cosa chiedi la frutta? Ma io sono un po' così. Fatto sta che ho aperto il cassetto del frigorifero e ho visto sta pallina blu. Ho detto: ma che cazzo? Volevo quasi toccarla, poi non ho avuto il coraggio e poi è venuto fuori che era un'arancia. Vi dico nel frattempo, perché dalla regia è venuto fuori la pagina di Wikipedia, se voi andate a cercare la pagina di Re Bibbia riguardo a quello che dicevamo prima, il racconto di Zero Calcare sul fatto che a Re Bibbia hanno trovato effettivamente un mammut, e cito testualmente: gli scavi archeologici hanno riportato alla luce un esemplare di mammut. Ah, questo fatto c'è su Re Bibbia, poi citano Zero Calcare. Questo fatto è anche citato nella profezia dell'armadillo del fumettista italiano, quindi non il polpo alla gola come si diceva un secondo fa. Bene, quindi fantastico Wikipedia, fantastico Zero, che sarà andato ad aggiungere lui stesso la voce su Wikipedia per farsi un po' di pubblicità. No, in realtà non credo, perché ho sentito un'intervistona di Zero Calcare con Roberto Recchioni. Sì. E, Recchioni, che è quello che adesso cura Dylan Dog. Esatto. E appunto si parlava del social, e Roberto Recchioni è molto attivo su questo campo, su Facebook, il blog, molto veramente avanti, fa un sacco di cose, pubblica, scrive, pubblicizza, un sacco di roba. Sì. Mentre invece Zero è un po' indietro, ecco. E faceva ridere questo confronto tra loro due, dove c'era Zero che ogni tanto si girava e diceva: ma che cazzo sta dicendo questo? E poi, facendo le battute... Ma c'è buon sangue tra i due. Sì, ma a parte che adesso non riesco a ricordarmi dove l'ho vista, comunque secondo me si trova su YouTube, è molto divertente, ecco. Facevano proprio ridere assieme. In più ci doveva essere anche Macox, che è un altro vignettista italiano che invece stava male, e quindi invece di essere lì con loro era a casa con la febbre, che faceva le vignette di loro due che erano lì live in streaming, e le postava su Twitter sul momento, e quindi c'erano anche figata. Ma questa è un'idea anche per te. Sì. Dai, prima o poi su Strip Trip ci sta. Vabbè, una cosa così. Una sera ti lascio qua parlare e ti metti in streaming e io da casa ti faccio le vignette. Allora, sentiamo da casa. Volete vedere Alessandro che disegna in tempo reale? Se lo volete vedere o sentire, vedere un po' dura. Però vabbè, ci adatteremo, dai. Sì. Sento in sottofondo il primo pezzo di questa sera, quindi lo lascio annunciare a Davide, il suo primo annuncio della serata. Sì, in realtà sì, questo è Brad Sachs con Bad Sign, un bel pezzo acustico. Ce l'ascoltiamo, poi ci risentiamo dopo. A dopo, ciao. Heartbreaks. Allora, siamo tornati e povero Davide, stasera ciao a fare tutti. Due cose. Ciao a tutti, no, infatti non ci sto dietro. E dai, stavamo, mentre voi vi ascoltavate il pezzo, noi ci stavamo chiacchierando e raccontando di Zero Calcare e Recchioni, ecco. E il rapporto tra loro è abbastanza amichevole, perché poi l'ambiente, almeno in Italia, è piccolo, ci si conosce un po' tutti, ci si conosce per forza, perché poi le fiere, insomma, quelli tra virgolette famosi sono sempre gli stessi. E quindi raccontavamo di una vignetta di un mesetto fa, in cui vignetta di Roberto Recchioni, tratta dal blog, in cui aiutami Davide. Sì, aspetta, ma quale? Quella, quella del Puppamelo. Ah, ok, sì, chiaro, per essere chiari. No, che Recchioni, come dire, era felice di aver superato per qualche giorno su Amazon le vendite del suo fumetto rispetto a quello di Zero Calcare, che è sempre in cima. Cioè, Zero Calcare è una cosa incredibile, si è proprio... ha preso un sacco di successo, insomma. E lui con grande dignità ha pubblicato questa vignetta nella quale fondamentalmente c'è lui davanti al fumetto di Zero Calcare, fa Puppamelo, che ti ho superato nella classifica. Vabbè, così, cose simpatiche che succedono fra autori famosi qui in Italia. Ma è meno male che succedano, perché vivacizzano anche un po' l'ambiente. E almeno io sono contento che ci sia questo movimento, sono contento che... lo so che parliamo sempre della Bau Publishing, però obiettivamente la casa editrice è più attiva al momento, ha azzeccato il modo di fare marketing, ha azzeccato gli autori, perché si è presa Zero Calcare e diversi altri autori stranieri. E, guarda che è proprio vera sta cosa qua, cioè un qualsiasi fumetto che vedo che loro pubblicano o hanno un marketing geniale, però che questo sicuramente è, trovo che abbiano un occhio particolare, scelgono degli autori veramente bravi, delle storie veramente interessanti. Io sono assolutamente d'accordo, io credo che metà degli ultimi acquisti che ho fatto nell'ultimo anno sia quasi tutto Bau Publishing, cioè il 50% dei miei acquisti di fumetti è Bau Publishing. È strano, perché almeno fino a qualche anno fa non era così famosa, almeno io non la conoscevo, non c'era, non so neanche bene da dove sia venuta fuori, però ho visto anche un po' dalla pagina Facebook la gente che ci lavora è abbastanza giovane, sono ragazzi appassionati come possiamo essere io e Davide, insomma, voi che ci ascoltate, e beh, i gusti sono quelli azzeccati, ecco, non è neanche a caso che adesso la Bonelli abbiano preso, come dicevamo prima, Recchioni a fare il curatore di Dylan Dog, perché evidentemente c'è bisogno di una marcia in più oggi, non basta più uscire in edicola, bisogna... uscire in edicola, essere su Amazon, pubblicare su Facebook, pubblicare su Twitter, avere un account Pinterest, è tutta una serie di cose. Pinterest, che roba, ne abbiamo anche parlato in altre puntate. Sì, ne abbiamo parlato. Insomma, comunque, torniamo a Zero Calcare. Ecco, stasera volevamo parlare un po' di questo fumetto. Sia io che Davide l'abbiamo letto. Sì, io che Davide credo l'abbiamo comprato, no, forse vero. Davide l'ha comprato su Amazon. Sì, io l'ho preordinato. L'ho comprato prima che uscisse. No, allora io invece ho aspettato il giorno d'uscita e l'ho ordinato anche io su Amazon. L'idea era quella di prenderlo al solo nel libro, ma... Ma quale fumetto è, scusa? Ah, sì, è giusto, ho detto okay. Bene. Sì. No, infatti mi ricordavo che l'avevi comprato lì. No, avevo paura fosse l'armadillo, che invece no. No. Quello l'ho scoperto a Strip Trip, perché Strip Trip è un programma che ti insegna un sacco di cose. Tantissime cose. A me ha insegnato a parlare in radio. A Davide ha insegnato a... Per ora, fumetti. No, per ora tipo a dire meno parolacce mentre cerco di risolvere 10 problemi tutti insieme. Beh, sul momento sì, in effetti ti rispetto. Io invece sono molto... Anch'io in effetti sono molto più tranquillo in radio, sarà che non ho di fronte le persone, quindi mi angoscio un po' di meno e... Dai, angosciamolo, vi prego, angosciamolo. Chiunque volesse venire a una puntata di Strip Trip è invitato. Guarda, io stasera ci ho provato con Chiara, ma era stanca e quindi no, vado a casa, vado a dormire. Abbiamo rischiato di avere il pubblico stasera, invece ragazzi, niente. Però no, facciamo un invito ufficiale, direi. Dai, un invito ufficiale. Scrivete se qualcuno vuole venire in radio. Scrivete su Facebook, noi vi facciamo sapere. Noi ci vediamo sempre qua in radio quando capita. Quindi, quindi sapete esattamente quando ci trovate, quando qua ci trovate qui, e vi aspettiamo. No, beh, come, cosa possiamo dire? Possiamo dire che su Strip Trip c'è la pagina Facebook. Sì, assolutamente. Pagina Facebook è direttamente collegata a me. Quindi, insomma, se scrivete arriva la notifica direttamente a me, e magari metterò anche, visto che Davide sta diventando parte attiva del, del programma, magari cercherò di, vediamo, dipende quanti soldi mi dà, di metterlo come amministratore. Ci metteremo d'accordo dopo, ci metteremo d'accordo. Ebbene, insomma, scrivete su, sulla pagina domande, volete venire qua a trovarci, volete venire a assistere, volete venire a chiacchierare, avete qualcosa di interessante da dire. Noi siamo assolutamente aperti, non siamo spocchiosi, non, no, decisamente, cioè, no, tranquilloni proprio, ce la chiacchieriamo un po'. Se siete appassionati ci facciamo. Ale, senti un po', ma la tua storia preferita di quel fumetto che hai lì davanti? La mia storia preferita di questo fumetto che ho qua davanti, beh, l'ultimo di Zero Calcare. L'ultimo di Zero ogni Calcare, ogni maledetto, allora, lunedì. Ogni maledetto lunedì, perché insomma è una raccolta delle delle storie che lui pubblica sul blog, diciamo messe in una sorta di ordine temporale con una storia più grande a comprenderle tutte. Personalmente la storia che più ma anche perché alla fine io avendolo letto interamente come fumetto, non lo so, sono un po' in paranoia. Adesso lo sto sfogliando, ma non no, è difficile. Io devo dire che l'ho apprezzato molto, perché rispetto a... In realtà forse perché ero veramente prevenuto. Uno, come fai a fare un fumetto più bello della profezia dell'armadillo? E col polpo alla gola grosso modo ce l'ha fatta, o comunque pari. Dopo questi due mi sono detto, quello lì che cos'è? È la raccolta dei fumetti che ha messo sul blog. Io ho detto, ma io li ho letti i fumetti del blog, mi sa che ho fatto una cazzata a comprare questo fumetto qua. E invece mi sono ricreduto. Invece sì, c'è un qualcosa in più, ecco. Sbaglio o anche c'è un po' di differenza tra le storie? Cioè non sono proprio pari. Ma secondo me ci sono delle aggiunte, ci sono delle... Vabbè, ovviamente c'è la storia, diciamo, maggiore, più grande, che comprende tutte le altre storielle, che un po'... te la fa passare, ecco, diciamo, hai voglia di vedere cosa succede dopo in un certo senso. Sì. Ma al di là di questo, secondo me le storie in bianco e nero, che sono proprio letteralmente quelle del blog, perché il resto del fumetto è a colori, cioè la parte nuova è a colori, secondo me sono la stessa, proprio la stessa roba che c'è sul blog. Sì, secondo me sì. Detto questo, più che altro sai cosa? A me fa piacere averle su carta, perché mi fa proprio ridere, cioè quando ho voglia di farmi due risate io mi prendo Zero Calcare e so che una risatina me la faccio. Quindi, vero, confermo. Quindi non so, a me forse la storia che è piaciuta di più, adesso rispogliandolo, è la parte dove racconta di lui a Genova che ha preso le botte dalla forestale. Esatto. In pratica storia autografa, direi. Autografa, sì. E tra l'altro c'è anche un primo fumetto di Zero Calcare dove racconta proprio la sua avventura a Genova, che io onestamente non ho letto. So dell'esistenza di queste cose, non so dove sia uscita, penso che sia uscita solo nell'ambiente centri sociali romani, perché lui bazzica molto questo ambiente. Sì, sì, e ne parla spesso. Esatto. E in realtà il fumetto intero io non l'ho mai visto. Forse c'è qualcosa alla fine di una delle edizioni di... Non so. Dei tre, non ricordo. Neanch'io bene. Comunque c'è questa parte qua dove in pratica lui con Secco e la ragazza. Secco è l'amico. L'amico di sempre. Esatto. Che credo sia anche il suo migliore amico nella vita. Esatto. Che tra l'altro in questa intervista di cui vi ho parlato prima, che c'era anche Zero Calcare, Zero diceva c'è Secco che mi ripete costantemente che lui è un po' come oddio, io non ho visto Lost, ma un personaggio di Lost che parte come secondario e poi alla fine diventa quasi il protagonista. È vera sta cosa, neanche io presente Lost, però Secco alla fine ti sta simpaticissimo. Esatto, e nella realtà Secco dice sempre a zero, io farò come Locke, forse Locke di Lost, e alla fine sarò io il vero protagonista dei tuoi fumetti, non tu. Sbaglio, ho letto sulla pagina di Strip Trip, quindi l'hai pubblicato tu, che è previsto, cioè una roba da urlo, una prossima uscita di un fumetto in cui Secco sarebbe il protagonista. Tra l'altro zombie, tipo universo sì, zombie. Io penso che fosse una roba per ridere, poi è da vedere, lo scopriremo, diciamo, zero. Io non so, in effetti, tornando a quello che diceva prima Davide, io mi chiedo adesso quanto potrà andare avanti a tirarla con questo personaggio, perché è lui. Sì, è lui. Lui si racconta, è vero, questa è una sfida, insomma, adesso non per tirargliela male, coraggio, cioè siamo dalla tua, tu che sei un ragazzo creativo. Mi aspetto per il prossimo, mi aspetto qualcosa di nuovo, non so, qualcosa che non abbiamo ancora visto. Che svolti, sì. Perché abbiamo visto lo zero a tutte le età, abbiamo visto con un polpo alla gola, abbiamo visto adesso... Come si sente lui e come ci sentiamo noi, noi dico 20-30enni nel mondo di oggi, con un po' persi, senza un lavoro, senza un vero obiettivo, senza sapere se quello che abbiamo adesso in questo momento durerà, perché è di questo che parla, sì. Diciamo, il tema major in ogni maledetto lunedì. E quindi io sono curioso di vedere cosa tirerà fuori dopo. Sono d'accordissimo, ci ascoltiamo un brano. Dai, perché io la tiro sempre lunga, meno male che ci siamo che... lunghi, ma anche io, mi viene voglia di chiacchierare. Ragazzi, se volete scriveteci su Facebook, dite la vostra, diteci siete noiosi, parlate di quest'altra cosa, non c'è problema. Ci ascoltiamo questo, Ale, di tu, perché è bellissimo, secondo me. Gli Emerald Park, già li conosciamo, e questa è Hume. Ciao ragazzi, siamo tornati e stavamo di nuovo a cazzeggiare su internet, eravamo sul blog di Recchioni a guardare... Ciao a tutti. A guardare i post, ecco. Se vi interessa il blog di Recchioni, di Roberto Recchioni, è dalla parte di Asso. Yes. Molto interessante, pubblica anche un sacco di recensioni di film, lui è un super nerdone, quindi film... videogiochi, fumetti, notizie insomma, tutto quello su, che legge, sulla tecnologia, fa, esatto. Lui condivide, scrive, è molto, molto attivo, quindi fa anche piacere seguirlo. E infatti una cosa che mi colpisce, Ale, è questo post del, vediamo la data, di qualche settimana fa, disegnini con il Galaxy Note, no? C'è lui che praticamente parla del fatto che, e pubblica anche dei bellissimi schizzi fatti in treno da qualche parte sopra il Galaxy Note. Esatto, e questa bello. Cosa capita a fagiolo perché sono proprio lì per valutare la spesa. Perché tu disegni anche in giro? Sì, cioè lo facevo molto di più una volta, adesso tra lavoro e mille impegni, tra cui anche Strip Trip. Certo, perché no, è chiaro che... No, ma voi non sapete quante puntate di Strip Trip ho preparato in treno, praticamente tutte. Tra l'altro sono tutte disponibili in podcast, sì, per chi volesse. Tutte sul sito di Radio Bawalla, c'è la pagina dedicata a Strip Trip e lì potete accedere alla sezione podcast dove ascoltare tutte le puntate, vi prego, tranne la prima che è veramente terribile. No, io devo dire che non mi dispiace la prima. Ascolta, io passerei alla seconda fase di questa... strip puntata, che sarebbe questa. Io pensavo, ma sarebbe molto interessante chiederti delle cose per te che sei un addetto del settore, parliamo del settore del fumetto chiaramente, sì. Tu comunque lavori in quest'ambito, diciamo, questo sì. Grande ambito, magari non specificatamente del fumetto, esatto. Vero, corretto? Purtroppo no, lavorare proprio nel fumetto è difficile, cioè bisogna avere grandi idee, grande forza d'animo e continuare a avere, non so, la voglia di perseverare, ecco. Ma sostanzialmente però tu da una parte sei un grande patito, poi sei una persona che non può non disegnare. Io disegno sempre e diciamo che anche quando sono concentrato, quando nei momenti di attesa, ecco, se ho una penna in mano e anche solo un qualcosa su cui scarabocchiare, lo faccio da quando avevo penso 5 anni e quindi ho sempre disegnato, poi la qualità dei disegni. Ma perché ti è sempre riuscita bene? Molte persone si fermano, non vanno avanti in questa attività perché dicono a me disegnare non riesce, è una cosa che non mi... In realtà io ho una teoria che secondo me è una questione di allenamento. Cioè intanto, vabbè, ovviamente ti deve piacere. Lì già a 5 anni, secondo me, non è che avessi tanto allenamento a 5 anni, no, avevi la però, predisposizione forse a divertirti con quella cosa. Secondo me, allora, se a uno piace, secondo me ce la può fare, la questione è proprio ti deve piacere. Allora, se ti piace lo fai una volta e dici, si mi è venuto brutto, o riconosci che è brutto, che qualcun altro l'ha fatto meglio, sì. E quindi lì c'è, aspetta, però mi piace, c'è la curiosità di fare il passo in più, la voglia di fare qualcosa in più. E ovviamente anche il copiare, perché alla fine si tratta molto di questo, cioè tutti in un modo o nell'altro copiano, anche Zero Calcare nei suoi fumetti fa vedere che lui alle medie disegnava Dragon Ball, quindi... È vero che lo fa vedere. È assolutamente una realtà sodale che copiando si impara. Tra l'altro è bello quel pezzo di Zero Calcare perché lui... racconta di questa sua capacità del disegnare Dragon Ball chiaramente strumentalizzata a fare colpo sulle ragazze, esatto. Perché c'è quel pezzo in cui lui racconta questa cosa che le compagne di classe, ma allora è vero che sai disegnare bene, e lui ne va fiero, esatto. Questa cosa poi viene sminuita, anche a me è capitato più volte che ti chiedessero e tu cosa fai, cosa studi, ancora quando andavo a scuola di fumetto, mi dicevano e tu cosa studi? Dicevo, io studio il fumetto, faccio l'illustratore. Oh, ma che palle, poi cosa fai tutta la vita a disegnare Topolino? A parte che disegnare Topolino, infatti sti cazzi. E poi sul momento dici oh, ma uffa, ma cazzo, ma io non disegno, dopo li faccio anche altre cose, magari sul momento non sai come rispondere, poi dopo invece ti piglia il Cristo e dici, oh, vaffanculo, ma pezzo di merda, ma... Beep, beep. Vabbè. Beh. Comunque, volevo arrivare al fatto che c'è una parte bellissima sull'ultimo fumetto. Dove? Ah, sull'ultimo fumetto, scusa. Dove c'è lui che si sente un po' in crisi di identità perché, tra l'altro, se non sbaglio è dell'86, quindi è esattamente la mia età. Ma pensa a te, è più piccolo di me, è incredibile. Almeno non sono sicuro, non vorrei dire una cazzata, però al massimo è poco più grande. Comunque c'è un pezzo dove si confronta con... aiuto, non so cos'è. Mi sfugge il nome, il cantante di Nirvana, dai. Kurt Cobain, hai ragione, esatto. Quel pezzo fa morire, è vero. Dove c'è Kurt Cobain che dice, io alla mia età ero già diventato famoso e mi ero già suicidato, e tu cosa hai fatto? E lui, toccandosi le punta degli indici, dice, io ieri ho disegnato una casetta e anche un gattino. Ti sei ritrovato in questa situazione, sì, nella vita. Assolutamente. Una casetta e anche un gattino. No, perché io avrei tante domande, no? Perché poi non ti senti mai abbastanza. Poi ti confronti con Zero, appunto, dici, cazzo, la mia età, cioè non fa nient'altro che disegnare. E invece magari uno si sbatte una vita a cercare lavoro, a cercare di mandare il curriculum e cose. Zero Calcare ha fatto i disegni, è passato Macox, li ha visti e gli ha fatto fare il blog e voilà. Sì, va detto che altro che, da una parte è veramente bravo a disegnare. Assolutamente. Cioè, ha un tratto che piace. Ma poi la cosa più straordinaria di questo ragazzo di Roma è la genialità dei soggetti. È il tema, alla fine, secondo me, non è nient'altro che uno specchio di quello che è la nostra realtà oggi, cioè la mia, la tua. Lui racconta la sua vita, quella che può essere la sostanzialmente tua. Sostanzialmente sì, il confronto con i genitori, i ricordi di, insomma, quelli che ci hanno fatto crescere. L'infanzia, i problemi dell'infanzia. I problemi del... ho studiato ma non riesco a trovare lavoro. E, insomma, tutte queste tematiche che per noi sono all'ordine del giorno e che molte persone purtroppo non vedono. Quindi è anche, diciamo, un po' di... aspetta, intanto vedo che Armando ha scritto su Facebook che ci sta ascoltando. Ciao Armando, mi interrompo un momento, faccio una comunicazione di servizio e allora ricevuto Peppino impastato, lo leggerò e ne parleremo. Senti, allora ti interrompo definitivamente, che stiamo sforando di brutto. Ci ascoltiamo un bel pezzo, che è quello che sentite già in sottofondo, e poi ci risentiamo dopo, che ho tante domande per te. Vai. Sai cosa stavo pensando? Quasi quasi ce ne mettiamo un'altra, perché questo è un medley, fra 20 secondi cambia. Quindi ci ascoltiamo i Floppy D con Best Friends. Vai, molto, Floppy D. Molto punk pop. You live in another time. che sono un ex panchettone. Ti è piaciuto questo pezzo? Sì, sì. Dopo ne sentiamo un altro dei Floppy D. Floppy D. E bentornati su Radio. No, non facciamo così. Bentornati su Radio Baguala, questa è Strip Trip. Sì, io sono Ale. E io sono Davide. Wow. Se vi siete appena connessi. No, non parliamo così di solito. Questa è una trasmissione molto tranquilla. Come è il tuo animo, credo. Tu sei una persona molto tranquilla. Sì, infatti ho sempre paura di essere molto noioso. No, secondo me no, perché poi alla fine sono le cose che uno dice, non come le dice. Ascolta, a proposito di cose che dici, io ti stavo facendo un po' l'interrogatorio, il terzo grado, la tua vita da disegnatore. Essendo io non un aspirante disegnatore, molto molto meno, io sono uno a cui piace vedere disegnare e schizzare due cose. Guarda, come dicevo, secondo me è già quello il punto di partenza. Cioè, disegnare può farlo chiunque, secondo me. Io, come dicevo, ho cominciato in modo molto amatoriale. Alle superiori facevo i fumetti con le caricature dei professori e... Eri quello della classe che disegna? O sì. Ce n'erano di più? No, alle superiori ero io il... Di solito. Il maestro della bic. Sì, di solito è così. Mamma mia, avevo fatto la parodia di tutti i nostri professori sul tema di Guerre Stellari. Quindi c'era, ogni professore aveva un personaggio. Esatto, C1 Piotto era la professoressa di italiano, di cui non faccio il nome per casomai ci fosse qualcuno che la conosce. E, c'era il professore di diritto che era Ciubecca. Beh, sai cosa, sarebbe interessante recuperare questi schizzi. Ma sai che sono andati perduti. Forse ancora qualcuno, e faccio un appello a Fox e a Dani, Fox, se ci stanno ascoltando, se avete qualcosa mandatemelo, perché erano veramente fantastiche, delle cose epiche. Finito. Insomma, e quello lo facevo prettamente durante l'ora di matematica. E infatti matematica non era affatto il mio forte. E quindi poi ti sei messo a disegnare casette esatto, e gattini come faceva Zero Calcare, e del quale stavamo parlando prima. Ascolta, un po' di... andiamo avanti nell'interrogatorio. Hai iniziato molto presto, pensi che comunque sia una predisposizione che, come dire, se ti diverte, chiunque possa applicarsi, esatto, e migliorare, diventare un disegnatore. La domanda, ma tu hai inventato dei tuoi personaggi o solitamente coppie? Ma in realtà sì, poi cioè ho... dipende, ecco, è difficile da spiegare, perché per il disegno assolutamente copiare, insomma, ho tot maestri del disegno che copio regolarmente. Dai, uno solo. Via, veloce proprio. Oddio, Mastantuono. Massimo Mastantuono. Ok, andiamo avanti. Quindi, andiamo avanti. E invece, per quanto riguarda i personaggi, sì, qualcosa ho inventato. Ho prodotto un sacco di roba, un sacco di progetti iniziati e poi lasciati a metà, o per collaborazioni mancate, o perché fondamentalmente mi manca il tempo. Ecco, e per fare attività non remunerate è sempre difficile trovare il chiaro, tempo. E beh, insomma, per quello non è che si copia, però ovviamente viene fuori quello che ti piace, insomma, le influenze, quello che leggi, quello che guardi, che osservi. E quindi è normale, in un certo senso, copiare sotto questo aspetto. Quindi subire le influenze delle robe che ammiri. Ecco. Ho capito. Quindi di solito comunque copiare non è una cosa negativa. No, assolutamente. No, molti lo pensano, no? Da fuori, no? È una cosa, tutti, assolutamente. Anche Leonardo ha iniziato copiando. Anzi, Leonardo proprio copiava. Anche perché non c'era la macchina fotografica, esatto, al tempo. Si copiava se stesso allo specchio, ma non è solo il disegno dal vero, è anche proprio il prendere spunto da quello che facevano gli altri. D'altronde i movimenti di pittori, i grandi pittori comunque nascono sulla scia di stimoli sia politici che anche visivi del momento. Quindi è assolutamente normale copiare, come è normale, non so se vi guardate un po' attorno nel mondo del fumetto, ma io vedo un po' adesso uno stile sullo stile GP, ecco. non so come spiegarlo, molto graffiato, molto storto, molto sintetico. Lui è bravissimo a disegnare, se lo vedi disegnare, fare un qualcosa di disegno dal vero, di anatomia, per dire, è bravissimo. Ma dai, io pensavo che invece fosse... Assolutamente no, ma questo si nota guardando, non so, come imposta con quelle vignette, come sono i movimenti. Quindi è un brutto ricercato. È un brutto ricercato. Per fare un grande paragone, mi viene in mente Picasso. Tu vedi un quadro di Picasso e dici: questo qui non sapeva disegnare, si inventava ste robe con i tondi. Invece c'era una teoria alla base e lui voleva raggiungere quella roba lì. Esatto, e diciamo che Gipi è un po' meno diciamo, la ricercatezza, ma è più la sintesi, ecco. La sintesi. Esatto. La sintesi. E in questo momento c'è un po' questa tendenza qua alla sintesi. Ci sono anche molti autori francesi che seguono questa corrente, diciamo. Abbiamo anche parlato di Portugal, di Cyril Pedrosa. Sì. Cyril Pedrosa anche come disegno è molto simile a Gipi, quindi insomma ci si copia, esatto, ci si copia a vicenda, si segue molto il trend, ma non perché è trend, ma perché piace, perché c'è... Per arrivare addirittura a delle vignette internazionale che mi vengono in mente ora, non so se è presente, ma ci sono diversi autori che fanno le vignette statiche, al punto in cui i personaggi sono sempre nella stessa posizione, esatto, in tutte le vignette. Ecco, parliamo proprio di... esagerazione, a me quello non piace perché... Serialità estrema. Esatto, più grafica e più... Tra l'altro facessero almeno ridere, ma a me... ogni tanto rimani lì. Dici, vabbè. E che poi io sono un po' come Zero Calcare, nel senso... Penso, no, sono io, non l'ho capita, mi manca qualcosa. Cioè, un po' il senso di colpa. Più delle volte anch'io, però passate tre o quattro che non le capisco e dico, insomma, ma cioè, un cervello ce l'ho, ogni tanto funziona, dico almeno una, ogni tanto dovrei capirla, invece... Senti, passiamo di palo in frasca, di penna in matita. Ma quando disegni, proprio quando parti a disegnare una cosa, un personaggio, supponiamo, incominci da un particolare come parti dagli occhi... dalla testa, poi fai il corpo, allora, oppure ogni volta è diverso? Ma diciamo che la teoria vuole che si parta disegnando i volumi della figura, ecco, si parte dalla testa, il busto, poi si disegnano le braccia, le gambe, e di solito si parte dalla testa. La testa è quello che dà poi le proporzioni per tutto il resto, in teoria, proporzioni che io casso sempre, regolarmente. Beh, comunque... Volume, quindi si parte dal volume. Diciamo che si disegna l'ovale della testa e poi da lì. E poi si dà la tridimensionalità, si traccia la linea su cui ci dovrebbero essere gli occhi, le orecchie, quella centrale che sono poi la mediana per naso e bocca, e poi si va a disegnare tutto il resto, i particolari, e in teoria si parte così. Tante volte invece quando scarabocchio, quando sono lì che magari a lavoro, che sto aspettando un render, sono lì che scarabocchio sul fogliaccio di recupero, e capita che parto dall'occhio magari a caso e poi viene fuori tutto il resto. 9 volte su 10 è una roba storpia e non è guardabile, non è pubblicabile in alcun luogo. Infatti di solito finiscono nel cestino quelle robe lì. Però diciamo che, non so, io sono molto libertino sotto questo aspetto. Se vuoi farlo, puoi farlo in qualsiasi modo, purché tu abbia un obiettivo, ecco. Se il tuo obiettivo è fare una roba storpia partendo disegnando solo l'occhio e poi tutto il resto, cioè ci sta. Se è quello che vuoi fare, se è quello a cui vuoi arrivare. Ci stiamo dicendo una cosa molto importante che ci insegna il disegno, infatti. Se sai dove vuoi andare, ci arriverai bene. Esatto. Se sai cosa vuoi, se parti disegnando senza sapere cosa stai facendo, non verrà mai niente di buono. Un approccio proprio. Sì, è proprio... Me lo ripeteva sempre il mio insegnante di fumetto, Gigi. Ecco, che... Mi dispiace che non sono abbastanza tecnico, perché qua se fossi bravo ci starebbe un bello stacchettino con musica giapponese. No, la Tarantino, no? Il mio insegnante diceva... Sì, sì. Cosa diceva l'insegnante? Appunto questa cosa qua, che non puoi partire disegnando a cazzo, ma devi avere già in testa... Non puoi disegnare! Devi avere già in testa... già visibile nella tua testa, cioè chiudendo gli occhi devi sapere, devi vedere quello che vuoi e poi ci puoi arrivare disegnando, no? Non puoi partire disegnando a caso sperando di ottenere un buon risultato. Poi ovviamente se non sai cosa vuoi arrivare, disegni a cazzo. Io tante volte disegno a cazzo e, come dicevo, una volta su 10 mi viene fuori qualcosa di fico e dico, questa se sto a pensarla per 10 anni no, non mi viene neanche... E invece a volte le cose di getto proprio buttate lì vengono, però è raro, sei anche lì, devi avere una mano super allenata e una visione completa che ti permette di scarabocchiare, appunto di partire da un occhio senza un minimo di costruzione, esatto, prima e riuscire a fare una cosa decente di struttura. Bene, stiamo tirando lungo, troppo sì, lungo. Cosa facciamo? Ci ascoltiamo un bel pezzo. Questo lo introduco io perché Vai. Lo sentivo prima. Questi sono i Diablo Swing Orchestra con Balrog Boogie. E vi invito a rimanere in ascolto perché è molto strano, però trovo che sia degno di nota. È un pezzo che cambia sempre tempo, è strano forte, però dura poco. Quindi ci ascoltiamo questo pezzo un po' intellettuale e poi ci risentiamo dopo. Ciao. Fantastico, a me è piaciuta molto. E ridiamo anche noi. E ridiamo anche noi. Bene, io direi che per questa sera... Armando ci scrive, figata di canzone. Va bene, meno male. E beh, come dicevo, siamo sul chiudere. Questa sera siamo andati lunghissimi, però come vi ho detto all'inizio, come vi ho anticipato, è una nuova formula a due, un esperimento, e la prossima volta saremo un pochino... meno prolissi, ecco. Sì, ci proveremo. Tra l'altro mi piacerebbe anche avere una volta Armando qua con noi, che vero, secondo me è una chiacchierata, ce la possiamo fare. Magari mi leggo Peppino Impastato e la prossima volta ne parliamo assieme anche con lui, se riusciamo a organizzarci tutti assieme. Basta, chiudo qua perché sennò mi dilungo come al solito. Benissimo. E allora che dire, ciao. Ci sentiamo la prossima volta, dai. Pagina Facebook, il podcast che arriverà a breve, mi raccomando, seguiteci, Radio Bawalla, la radio Creative Commons. Don't be common, be creative. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.